America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, e da New York vi informo che le elezioni italiane hanno qui nel continente nordamericano vari sapori culturali molto molto diversi fra loro. Un sapore messicano e centroamericano. Un sapore statunitense, dalla costa orientale a quella occidentale, al sud e al nord del paese, Canada incluso, anzi Groenlandia inclusa. Tutti coloro che votano sono o dovrebbero essere comunque italiani e italo-americani, e parliamo di alcune centinaia di migliaia di persone aventi diritto al voto. Ecco, devo dire, per me è una piccola aberrazione, perché il voto all'estero conta, è vero, ma perché io non posso votare per la mia circoscrizione di riferimento in Italia? Invece da qui, dall'America, dobbiamo votare per un senatore e due deputati, questo è il totale dei delegati che vengono inviati in Italia, dal Nord Centro America, che magari pochissimo hanno a che fare con l'Italia, candidati che tra l'altro, poveretti, e beh, insomma, devono coprire in teoria tutto lo spazio territoriale, fare campagna, cioè da Mexico City a Vancouver, passando magari per New York, per Miami, insomma una dimensione territoriale vasta circa 4 volte quella europea. E questo è il risultato di un progetto del compianto Mirko Tremaglia, che pensò che il voto all'estero era conservatore, avrebbe forse aiutato il suo partito. La differenza rispetto al voto italiano: qui vincono le preferenze, al di là del partito, chi ha più voti vince. E c'è dunque in corso una battaglia un po' surreale in una comunità di italoamericani con passaporto italiano molto variegata, perché a votare ci sono italiani che vivono temporaneamente o permanentemente in America o che sono qua di passaggio. Però ci sono anche italoamericani che hanno il passaporto in virtù, magari chissà, di un nonno, di un bisnonno, ma che poi non parlano neanche la nostra lingua. Un esempio, non so, l'attore Robert De Niro. You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Ci sono i candidati, per evitare guai con la par condicio, li cito tutti. Cominciamo dal PDL, al Senato, Renato Basilio, Giordano, Vincenza Michienzi, alla Camera, Amato Berardi, Don Serafini, Paolo Canciani, Domenico Delicarpini. Delicarpini, 63 anni, è cofondatore del quotidiano per gli italoamericani America Oggi, quello che esce in panino, per intenderci, con La Repubblica. Per il Partito Democratico, alla Camera, Gianluca Galletto, Giovanni Rapanà, Francesco Lamarca, Marco Piano. Al Senato, Rocco Di Troglio, Renato Guerino Turano, classe 1942, nato in Calabria, cresciuto a Chicago, panettiere e già membro del Senato della Repubblica Italiana dal 2006 al 2008. Al braccio di ferro per PD PDL dobbiamo aggiungere anche il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, la Camera, tra gli altri un ricercatore dell'MIT di 35 anni, Eugenio Daviso, un docente 29enne dell'Università del Wisconsin, Sandro Sessarego, un imprenditore di Milwaukee, Roberto Beritta, 42 anni, mentre al Senato c'è un ricercatore della NASA, Simone Lolli, 43 anni, e un dirigente d'azienda della Florida, Arturo Busca, 42 anni. Ci sono poi il movimento Fermare il Declino e Insieme per gli Italiani. Per il primo si presentano alla Camera Giorgio Mosconi e Bianca Delle Piane, per il secondo Cesare Sassi e Antonio Caruso, al Senato Salvatore Ferrigno, Toni Vespa, Sabbia Auriti, Joseph Di Virgilio, alla Camera. Con Monti per l'Italia invece ci sono alla Camera i candidati Augusto Sorriso, ex sindaco di Licata, Liborio Zambito, Angela Rosaria Nissoli, Fitzgerald, Luigi Solimeo, mentre al Senato sono in lista Antonio Rocco, Porretta e Vincenzo Arcobelli. I candidati, devo dire, hanno professioni tutti molto diverse, alcuni sono politici o politicanti, alcuni sono semplicemente dei professionisti, e il punto di riferimento è quello di centinaia e centinaia di associazioni italoamericane, dalle grandi, grandissime come il NIAF, che ha milioni di iscritti, a quelle piccole, locali, che ne so, di marchigiani, di torinesi, di palermitani. Pensate, ogni regione, quasi ogni comune italiano ha una sua associazione di riferimento fatta di immigrati che votano. E come contano le associazioni, contano anche i sindacati, o comunque le espressioni dei sindacati italiani. Per darvi un'idea della dimensione, la circoscrizione più grande nell'area metropolitana di New York, che comprende anche Connecticut e New Jersey, e che ha circa 60.000 elettori. Un ruolo determinante nel braccio di ferro che ci sarà tra PD e PDL spetta al Canada, dove nel 2008 fu il partito di Berlusconi ad avere la meglio. Ma direi, per chiudere, vorrei fare una chiacchierata con uno dei candidati per farci raccontare cos'è stata questa avventura. Ho con me i microfoni di America 24 Gianluca Galletto, che corre per il PD per la Camera, che ha avuto l'appoggio dell'economista Nouriel Roubini e che è qui in America da qualche anno. Buongiorno Galletto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, Galletto, intanto cominciamo. Lei è un tipico esempio di solo andata, colui che compra un biglietto, viene in America e non ritorna in Italia. Intanto, perché questo biglietto di solo andata? Ci racconti, quando è arrivato in America? Penso che la mia storia sia abbastanza simile a quella di molti. New York mi ha molto attratto, è stata l'idea di voler fare un'esperienza qua, che poi col tempo è diventato un radicamento, e quindi è stata un po' una cosa, diciamo, come si dice qui, a snowball, a palla di neve, nel senso che è cresciuto sempre di più il mio coinvolgimento nella società newyorkese, sia nella comunità italiana qui che anche con il resto del, diciamo, a livello professionale e poi a livello politico americano. Ci racconti la sua avventura elettorale, che lo valga per tutti. Quanto è un problema? Come si risolve il problema territorio? Quanto viaggiate? Chi controlla il voto? Viaggiamo molto, è chiaro che non possiamo coprire tutto e quindi dobbiamo fare una selezione delle città principali, soprattutto in una campagna come questa che è stata molto più breve che in passato. Per cui si seleziona i posti dove ci sono le concentrazioni più alte di presenza italiana. Sono New York innanzitutto, ma quello è un po' un vantaggio visto che sono di New York, ma poi Toronto. Toronto ha una presenza italiana che è grande quanto quella di New York, se non di più, e anche una partecipazione al voto un po' più alta. Poi c'è Montreal, che è una presenza italiana molto molto grande, e anche molto italiana, nel senso che l'identità italiana è molto forte. Poi c'è Philadelphia, Chicago, Boston, la West Coast. Sono stato anche a Mexico City, dove esiste una comunità italiana anche lì, non trascurabile, e per me era importante dare un segnale che mi occupavo anche delle questioni dell'America Centrale, perché spesso sono un po' trascurati, perché essendo un po' più lontani, cioè, rispetto al baricentro del Nord America. Io avevo comunque un interesse a cercare di rappresentare e conoscere anche il territorio. Per me era, in alcuni posti non ero mai stato, quindi è stato anche un momento di apprendimento e di ascolto, perché una campagna elettorale secondo me ha questo aspetto che io ritengo molto importante. Galletto, in genere qui vincono gli italoamericani. Lei è cresciuto, si è laureato in Italia, il suo concorrente più diretto, se non sbaglio, è proprio all'interno del PD ed è in Canada. Qual è il suo punto di forza, secondo lei? Innanzitutto vorrei definire cosa sono gli italoamericani, perché probabilmente si intende gli italiani che sono arrivati qui da 30-40 anni. La comunità è molto stratificata, dove ci sono doppi cittadini solo italiani o a volte americani che sono totalmente italiani ma hanno perso la cittadinanza per una questione legata alla doppia cittadinanza italiana che non era consentita fino alla fine degli anni 80. Sicuramente c'è un radicamento maggiore di chi sta qui da 30-40 anni con le associazioni regionali, siciliani, campani, abruzzesi, toscani, eccetera. Però quello che penso posso portare io rispetto alla mia e agli altri candidati è quello di aver avuto in questi anni la possibilità di coltivare e conoscere quel mondo e anche quello invece dei professionisti italiani che sono, non solo, comunque diciamo del flusso di italiani più giovani arrivati qui negli ultimi 10 anni, quindi sono un po' a cavallo, penso. Ho coltivato in questi anni un rapporto con l'Italia notevole, sia per le questioni, di lavoro, per cui conosco il paese, ci sono stato tanto. Sono stato nel partito democratico per tanto tempo, quindi ho delle relazioni forti con anche giovani nuovi dirigenti e con i vecchi dirigenti, che penso che sia utile perché è più facile integrarsi. Ho dei rapporti col Partito Democratico Americano, ho avuto un endorsement da uno dei senatori più importanti degli Stati Uniti, che è Chuck Schumer, e da uno degli economisti più famosi del mondo, si chiama Nouriel Roubini. Sono asset che vorrei portare, proprio mettere a servizio del paese. Per me è un modo di dare indietro qualcosa al mio paese, che ho imparato, è una cosa che ho imparato in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Anche se San Valentino è passato, voglio chiudere con la canzone di oggi il ciclo delle più belle canzoni d'amore americane. Questa la scelgo io e, se me lo consentite, la dedico a tutte le nostre ascoltatrici. When a Man Loves a Woman, Percy Sledge. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!